che siano cambiati i tempi rispetto ai conflitti del passato, che nella CGIL sia in corso una riflessione positiva, lo testimonia l'accordo raggiunto con CISL e UIL sul modello contrattuale, e quindi sono ottimista circa i rapporti tra il governo e anche la CGIL. Per l'occupazione ha già in mente qualcosa? La legge Biagi va bene, va migliorata, va attuata di più? Noi ripartiremo dal libro bianco con l'intenzione di realizzare compiutamente il disegno di Marco Biagi e di creare un mercato del lavoro più capace di includere soprattutto giovani, donne, cosiddetti anziani. Ci misureremo con la crescita dei tassi di occupazione. Una buona politica del lavoro peraltro fa crescita dell'economia, non è solo una politica di distribuzione attraverso i posti di lavoro, ma è anche una politica di produzione. Per i salari? Per i salari subito detassazione di straordinari e premi aziendali per incoraggiarne la crescita, allo stesso tempo sostenendo la maggiore produttività del lavoro.